Picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. Puntata numero 93 di Picchi di Frequenza, che apre con l'intervista di Luca Trada a Cecco Bellosi in occasione dell'uscita del suo nuovo libro per Milieu Edizioni. Procede con un progetto di baita, di nuovo spazio conviviale, raccontato da un nuovo apeino che entra nella redazione di Picchi, Marco Pini. Picchi di frequenza, torniamo ad ospitare con noi stasera Cecco Bellosi. Ciao Cecco. Ciao. Con Cecco avevamo già parlato recentemente nel suo libro Con i piedi nell'acqua. Stasera torniamo a parlare di una nuova fatica letteraria, Sotto l'ombra di un bel fior, che uscirà nei prossimi giorni, edito da casa editrice Milieu. Cecco Bellosi, scrittore, coordinatore di attività nell'ambito del terzo settore, a contatto con gli ultimi, con le marginalità della nostra società, un ribelle sconfitto, un po' come i protagonisti di questo libro. Appunto, Cecco, come nasce l'idea di questo racconto tra resistenza, montagna e lago, mi viene da dire, per te che sei un laghè, come si suol dire? Ecco, nell'introduzione che tu citavi parli anche, si chiude con una frase che più o meno dice: ribellarsi è giusto, ma siccome abbiamo perso, ribellarsi era sbagliato. È un po', possiamo dire, la summa, la sintesi di questo libro, o è un pensiero rabbioso che ti viene proprio alla luce di quei fatti che descrivevi prima? Ma allora io parto da questa considerazione: la resistenza e la storia degli anni 70 sono due storie sicuramente diverse, però hanno anche dei collegamenti. Uno dei tratti certo. Se si perde, cioè, come dire, vuol dire che era sbagliato, ma è una, solo una considerazione amara. Senti, tu oggi, appunto, dicevamo prima, vivi quotidianamente a contatto con le marginalità delle nostre società, che siano marginalità da malattia, da esperienze di vita, da fughe dai vari disagi che il mondo odierno genera. Vedi un po', come dire, di quella sconfitta, di quei vinti della resistenza anche in queste persone che, con cui tu oggi lavori? C'è una sorta di, anche di Cecco Bellosi attuale in questo romanzo? Ma penso proprio di sì, nel senso che comunque la nostra è stata, come dire, una sconfitta dentro un grande movimento, ma quelle di oggi sono purtroppo derive individuali, nel senso che la società oggi lascia i margini, lascia sulla strada migliaia e migliaia di persone che sono sconfitte da questo trionfo ignobile dell'io, dell'egoismo, della società del rancore, dei penultimi contro gli ultimi, cioè dell'invidia sociale dall'alto verso il basso, cioè queste cose che di volta in volta hanno un obiettivo, i tossici, i malati di AIDS, adesso i migranti, domani chissà chi, che sono frutto di queste campagne appunto di odio degli imprenditori della paura, e quindi loro sono delle vittime con le quali è bello stare, perché hanno tante belle storie da raccontare, come quella di Paolino, che è stata scritta da uno scrittore significativo come Stefano Valenti. Era un nostro ospite che aveva preso in misura alternativa e aveva preso un anetto in un giardino perché lo voleva liberare, per questo motivo era stato arrestato, e poi dopo lui, uscito dal carcere, mi chiamava per rientrare in comunità, ma stava con questa donna polacca per la quale si è fatto massacrare per difenderla, e poi lei non poteva entrare in comunità perché non era tossica, non era matta, non aveva nessuna di quelle etichette, no? Dico, per le quali è necessario avere per poter accedere a un qualche servizio, e quindi lui per lei è rimasto fuori ed è morto in una tenda davanti alla regione 2 anni fa. Questa è una storia emblematica di queste persone. Chiaro. Senti, un'ultima cosa, Cecco, il tuo, appunto, è un libro che parla anche di montagna, nel senso che la lotta partigiana, la resistenza anche in Lombardia si sviluppò, appunto, sulle valli, tra cui quelle che fanno da confine tra la Svizzera e il lago di Como. Cosa è rimasto in quelle valli, su quei monti, su quelle creste di confine, di quella lotta, ma anche, se vogliamo, di quello spirito del tempo, in terre che oggi, ci viene da dire, forse guardano più al sole padano che al sol dell'avvenire? Sì, in parte sì, in parte però, come dire, rimangono delle tracce storiche importanti, tipo quelle al rifugio Giovo, sulla vecchia strada che porta al passo di Sant'Iorio, quindi verso i Grigioni, in cui c'è questa lapide a ricordo di questi partigiani morti e uccisi in un rastrellamento la notte del 24 aprile del 1945, e comunque delle persone, ma anche giovani, che li ricordano, continuano a esserci, così come c'è dal punto di vista della montagna questo passo, direi epico, del libro, in cui parlo dell'avventura di Madesimo, in cui questi 30 partigiani partono dalla Val Bodengo, e in mezzo alla neve, era la fine di gennaio, c'era oltre un metro di neve, arrivano a piedi dopo una giornata e mezzo a Madesimo, e dove praticamente entrano in questi alberghi dove anche allora, in piena guerra, i ricchi stavano lì a sciare, e fanno un esproprio giusto, doveroso, salvo poi tornare attraverso una nuova perigliosa, come dire, ritirata. E tra questi partigiani c'era un signore, nome di battaglia Piompo, che era Giovanni Pirelli. I tempi sono tanto cambiati, tu parli di una storia sotto metri di neve, oggi pochi centimetri di neve sembrano bloccare tutto, esatto. L'intolleranza anche a qualche centimetro, cioè ormai sei intolleranti a tutti, anche a qualche centimetro di certo. neve. Mentre non bloccavano appunto gli ideali di libertà, le speranze di un mondo più giusto di allora. Cioè, ecco, io ti ringrazio, ti ringraziamo per questa tua... Sì. Piacevole racconto, per questo tuo piacevole racconto, ricordiamo Sotto l'ombra di un bel fiore, Milioni editrici, tra qualche giorno, vero? Uscirà il 5 aprile, ecco. Uscirà il 5 aprile con una presentazione alla libreria Feltrinelli di Piazza dell'Uomo, quindi cioè, si comincia così, penso che, spero che sia un libro attuale, perché di questi tempi cioè, c'è bisogno di ricordare da dove veniamo. Assolutamente, e l'invito a tutti e a tutte a visitare la Val Grosina e le altre valli che stanno a ovest del lago di Como e anche a nord, andando verso la Svizzera, i Grigioni come tu ricordavi, perché sono luoghi magnifici, sono luoghi di storia, sono luoghi anche se vogliamo dire abbastanza preservati rispetto a un turismo di massa, quantomeno alcune di queste valli, e quindi agli amanti della montagna e agli amanti della resistenza, ci viene da dire, delle lotte popolari, l'invito è a percorrerli con la neve, col sole, quando vogliono, perché sono posti magnifici. Grazie Cecco. E... Grazie a te, grazie a voi. E a presto. Va bene, d'accordo. Siamo oggi con Stefano Oldani, presidente dell'associazione milanese Ambiente Acqua Ollus. A lui vogliamo chiedere di raccontarci questo progetto della Baita del Monte Pra. Dici un po', Stefano, che cos'è? Questo progetto in realtà nasce qualche anno fa. Baita Monte Pra è proprio il nome che l'ente che è proprietario della Baita ed è l'ERSA ha preso. Diciamo, non è neanche più di tanto battezzato in quanto un nome storico. La Baita risale all'Ottocento ed era utilizzata dai pastori che in quell'epoca facevano pastorizie in tutta questa zona. Baita Monte Pra è praticamente un monte, Monte Pra, alto più o meno, arriva quasi a toccare i 1000 metri e si trova nell'entroterra di Garniano, è una delle città più interessanti del lago di Garda, sulla sponda bresciana. E cosa ci fa un'associazione ambientalista di Milano sui monti del lago di Garda? Ci fa appunto quello che dovrebbe comunque fare un'associazione ambientalista, cioè occuparsi in città di tutte quelle problematiche che sono legate a inquinamento, raccolta differenziata, rifiuti abbandonati, tutela e comunque attento controllo di quello che è l'acqua potabile e di come se ne fa uso. Però siamo pur sempre un'associazione ambientalista e per cui ci siamo detti che era fondamentale anche un po' riprendere i contatti con la natura. C'è stata l'occasione di un bando di provare comunque a spenderci anche su un'area che non è prettamente appunto l'area dove andiamo a operare per lo più, cioè Milano e provincia, ma che comunque è una zona della nostra regione. Raccontaci un po' quali sono le caratteristiche di questa baita, quante fa, come è fatta, quante stanze ha, che tipo di Sì. ospitalità può permettere. La baita non è molto grande, diciamo che è stata sistemata con 14 posti letto in letti a castello. La peculiarità però unica effettivamente è che noi la definiamo totalmente ecosostenibile, con tutti i suoi pro e con tutti i suoi contro, nel senso che non ha un acquedotto e per cui l'acqua che viene utilizzata per lavarsi, per lavare i piatti e le stoviglie, per lavare i panni se serve, è acqua piovana. Ovviamente è una quantità finita. Questo è un Certo, dato fondamentale, cioè bisogna tu ti devi razionalizzare il suo confrontare, utilizzo, insomma. assolutamente sì. Anche l'energia è fatta in maniera L'energia ecosostenibile. sì, ci sono i pannelli fotovoltaici che sono stati piazzati nel prato e l'energia elettrica arriva, e anche quella è finita, cioè 10 o 4 diciamo, smartphone attaccati per farsi ricaricare consumano Certo. tanto e bisogna farsi un ragionamento se conviene o meno. All'inizio di questa nuova era, le nuove generazioni, bombardate di informazioni, suoni ed immagini, camminano nel buio, stanno aspettando questa nuova energia che si avverte nell'aria. Qui lei Timsi, c'è Hannibal Smith, con anni di piani perfetti, non è il drive-in, se so mille miei difetti, pregi vanno subito, in panetti, in affetti, faccio in tagli bisturi, chiamo Italia B-Street. Vado a Macoyotte, spaccia BB, bizzi business dream dream, birrebini cin cin, bolo bolo dream team. Mi gioco e giù, casino, zin, salabim, primi rime a tennis, stile John McEnroe, pile pile, ma no, non è Roland Garros, so se sillabi o sibile, c'è ancora chi dice no, c'è chi li chiama crimin, ma anche la disco veste pop, nocciolini li do, tempo a tempo e tempi critici ho al 100% incentivi psichici, un flow che non ha limiti e va a segno, mo non ti chiedo un assegno, so che comprerà avrà energia, impegno in sinergia di cuore e mente, dalla via di una campagna ad una città puzzolente, perché regno nel mio regno, quanta gente fa fetente per niente e poi si perde dente per dente, perché regno del mio meglio, dici niente per niente, io dico sto con la mia gente, non scordo né ascoli né il presente, ricordo non so pascoli e tossicodipendenze, stesse storie diverso ambiente, com'è che è così difficile il presente, c'è chi non si arrende, c'è chi non le prende, se le prende non si stende, sì che c'è gente, gente se c'è chi ci si offende, ma dal culo gli pende. Sai che chi non ci sente al muso a culo e lecca merde. Qui è materiale resistente, alta tensione, alta corrente. Io corrente alla lezione avrai quel che dai, ma non è una funzione. Se per le strade è un via vai tra partenza e stazione. C'è chi vuole questo, c'è chi vuole questo, c'è chi vuole questo, c'è chi vuole questo, C'è chi vuole questo, c'è chi vuole questo, c'è chi vuole questo. So che vuoi questo, so che vuoi questo, so che vuoi questo. C'è chi vuole questo, c'è. Siamo in mezzo al bosco perché il bosco in realtà ha tanto da raccontarci, ci sono ancora dei punti dove i carbonari una volta raccoglievano la legna e facevano, insomma, creavano il carbone, ci sono, e si possono individuare, ci sono delle santelle che sono, risalgono o delle croci antiche che venivano utilizzate per le processioni degli abitanti della zona. C'è la possibilità di andare giù con un sentiero a un lago che si chiama di Valvestino, che è un lago artificiale, ma è molto affascinante, sembrano dei fiordi norvegesi, si possono vedere anche dalla baita. Poi ci sono degli altri sentieri, ad esempio uno che porta ad una grotta dove dicono che un antico bandito dell'epoca della Repubblica di Venezia si era rifugiato per fuggire alla sua cattura, e c'è un sentiero, Zanzarù si chiama, c'è un sentiero che porta nell'ultima grotta dove poi è stato appunto arrestato definitivamente. Insomma, ambiente, ma anche storia, sì, e leggende. Storie, assolutamente. E che attività svolgete all'interno di questa baita e in quale periodi anche? Allora, al momento diciamo che la baita è sprovvista di un impianto di riscaldamento, perché vi è un camino molto bello, molto grande, ed è tutto messo a norma all'interno, bagni nuovi, cucina nuova, però manca il riscaldamento, per cui da quando non serve più, diciamo, il calore di un impianto, per cui potrebbe essere dalla seconda metà di aprile, fino, noi abbiamo provato anche a ottobre, con quel bel tepore che c'è ad ottobre, ci si può tranquillamente rimanere, può essere vissuta. Da gruppi vari, noi diciamo che abbiamo avviato, anche grazie a dei progetti che sono stati finanziati da diversi enti, anche uno dal Ministero delle Politiche Sociali, abbiamo in questi anni ospitato dei senza tetto, dei ragazzi migranti che abitano a Milano e che hanno il grosso problema in estate di, purtroppo quando chiude il centro che li accoglie, non sapere sinceramente dove andare, per cui devono spostarsi in altri centri. Quando è capitato, per 2 anni consecutivi, dei gruppuscoli sono venuti su da noi e hanno fatto, diciamo, ci hanno aiutato anche. Hanno fatto, rispetto a all'ospitalità che gli abbiamo offerto, ci hanno aiutato a sistemare un po' la legna, a dipingere e a sistemare di manutenzione che non mancano mai, immagino. Ordina, assolutamente sì. Noi abbiamo ospitato dei ragazzi con disabilità psicofisica in questi anni con i loro educatori, e hanno provato l'esperienza appunto un po' diversa da quella che è il vivere nel loro quotidiano metropolitano, certo. E l'anno scorso anche dei campi per dei ragazzi di Quarto Giaro che di norma, per problemi più che altro economici delle loro famiglie di origine, non sono abituati, diciamo, non hanno la possibilità di andare in vacanza. Bene. Diciamo che quindi è aperta un po' a situazioni private, a nostri appunto associati, ma anche a realtà che, insomma, tramite progetti possono fruirne e anche beneficiarne. Certo, e quindi diciamo, se qualcuno all'ascolto volesse, curioso di quanto abbiamo detto, volesse conoscere questa baita, volesse trascorrere lì qualche giornata o qualche periodo, può contattarvi? Assolutamente sì, ti lascio fondamentalmente 2 contatti che ormai si usano. Uno è il sito internet, così mm-hmm. possono vedere anche un paio di foto, ambienteacqua.it. Scriveci via mail, è molto semplice, Montepra, ovviamente non c'è l'accento sulla A in questo caso, quindi viene fuori Montepra@ambienteacqua.it. Montepra@ambienteacqua.it e ambienteacqua.it invece è il sito. Sì, è il sito. E so che però avete in programma una festa ad aprile, se non sbaglio. Sì, vogliamo fare un paio di date di open day, o beh, diciamo di apertura e di ospitata a chiunque voglia venirci a trovare e conoscere, e la prima l'abbiamo pensata per il 28 di aprile, per cui saremmo in mezzo ai due ponti, è un weekend, il 28 di aprile è un sabato, e chi ha voglia può, quindi, anche se anche qualche giorno vuole farsi il weekend, può salire a trovarci. Benissimo, allora direi che questo è un bel, è una, già una prospettiva per i prossimi mesi primaverili che ormai si affacciano, nonostante in questi giorni faccia ancora molto freddo, però si sa che i programmi vanno fatti guardando un po' più in là, e questa può essere già un'ipotesi da mettere in calendario per le prime gite primaverili. Stefano, io ti ringrazio tanto per la tua disponibilità e magari ci sentiremo più avanti per sapere come stanno andando le attività della baita. Grazie Marco, grazie veramente dell'opportunità che ci hai dato. A presto, buona giornata. For the rap, C'è chi vuole, questo c'è. C'è chi vuole, questo c'è. Chi vuole, questo. So che vuoi questo, so che vuoi questo, so che vuoi. C'è chi vuole, questo c'è. Chi vuole, questo c'è. C'è chi vuole, questo. Anche questa puntata della la numero 93 in compagnia di Picchi di Frequenza volge al termine. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, come di consueto spero vi sia piaciuto e vi ricordo alcuni riferimenti dove potete incontrarci il resto della settimana. Picchi di Frequenza è un settimanale di 30 minuti, racconta di montagne a 360 gradi, quando come in questa occasione non troviamo tempo per le news, ci dedichiamo con i nostri blocchi principali a interviste, incontri, progetti, ma è soprattutto, oltre che un redazionale, un progetto appunto aperto a contributi esterni. La sua comunità vive attraverso il social network blu, alla pagina Picchi di Frequenza, il social network azzurro, all'account Tabuzzo3, e sul sito amonte.info, dove trovate l'archivio completo delle prime oltre 90 puntate, scaricabile liberamente in streaming o in download per l'appunto. Per tutto il resto noi ci sentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.